il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Un vecchio casone di campagna al fianco di un modernissimo edificio. È quello che si può trovare a Vallonga di Arzergrande, dove il comune ha fatto costruire vicino a questo tipico edificio della civiltà contadina, uno dei pochi che si può ancora trovare nel territorio della pianura veneta, una struttura contemporanea proprio con lo scopo di valorizzarla. E il risultato, dobbiamo dire, è molto interessante. Ne parliamo con l'assessore ai lavori pubblici di Arzergrande, Silvano Sambin. Assessore, questa nuova struttura, che cosa pensate di farne? Come pensate che possa aiutarvi a valorizzare anche la storia la storia di questo paese e la storia del casone? Sì, noi abbiamo il casone, che è una struttura storica che abbiamo recuperato come comune di Arzergrande nel 2008, e avevamo il problema che questa struttura, mancando di servizi igienici e quindi anche di un magazzino, e avevamo il problema di non riuscire a sfruttarla a pieno. Quindi abbiamo avuto l'occasione di, con dei contributi europei, di realizzare questa struttura di accoglienza turistica, e che ci ha permesso sia di creare una sala per vari utilizzi, diciamo, di accoglienza, e sia un magazzino e dei servizi igienici che ci permettesse poi di fruire completamente di questo compendio. Quindi la realizzazione è stata difficile, diciamo, dal punto di vista progettuale, perché il contesto è particolare e unico, e quindi gli architetti che abbiamo incaricati a progettazione ci hanno fatto una proposta che abbiamo da subito condiviso, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto architettonico, che ha fatto sì che questa struttura si collegasse a pieno col casone azzurro esistente e con l'intero complesso ambientale esistente. Una scelta anche coraggiosa, perché questa struttura è veramente moderna, questa struttura disegnata dallo studio Trendy di Vigo Novo, possiamo ricordarlo, perché prevede delle soluzioni che appunto cercano di integrare e coniugare la modernità della struttura e l'antichità del casone. Infatti il casone azzurro la parte sua è dal punto di vista bioclimatico prestazionale, perché all'epoca aveva la muratura in mattoni crudi, il tetto in paglia che faceva anche da isolante, e invece questa struttura, che siamo nel futuro, pur connettendosi al casone esistente, siamo nel futuro, è una struttura moderna, ad alte prestazioni energetiche. Infatti è dotato di un impianto fotovoltaico in copertura che consente, con delle pompe di calore, di fare riscaldamento e raffrescamento, e con l'isolamento a cappotto che abbiamo e vetrate performanti riusciamo ad abbattere i costi di riscaldamento e raffrescamento del 75%. Quindi bioarchitettura di una volta e bioarchitettura di oggi. Ora ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Torniamo in linea con la trasmissione Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando del casone azzurro, un tipico casone di campagna veneto che si trova a Vallonga di Alzer Grande. Approfondiamo adesso anche la parte un po' storica di questi edifici e lo chiediamo a Elisabetta Favarone, assessore alla cultura di Alzer Grande. Allora, qual è la storia di questo casone in particolare e poi anche degli altri casoni del territorio di cui ormai quasi non c'è traccia? Allora, il casone è la struttura tipica delle terre, diciamo, delle nostre zone agricole ed era, diciamo, la casa di abitazione dei contadini che avevano appunto i campi oppure erano, come nel caso del casone azzurro, abitate da degli affittuari che appunto coltivavano la terra per conto del padrone delle terre. E, è una struttura tipica che esiste, lo sappiamo dalle fonti storiche, come struttura il casone già a partire dal 500, la struttura del casone azzurro di Alzer Grande è più o meno datata per il tipo di conformazione di architettura e di materiali intorno alla metà dell'Ottocento. E da quella data, anche perché non abbiamo documenti precedenti, sappiamo di certo che già dalla metà dell'Ottocento era abitato e questo è dal caso unico per quanto riguarda il Veneto, abitato fino al 2006. È l'unico casone abitato che esista. Dopodiché appunto la signora appunto che abitava qui e appunto poi i possessori della terra e del casone hanno deciso di donarlo al comune perché potesse essere poi restaurato e reso fruibile per la cittadinanza. È interessante notare che era la struttura tipica del Veneto, anche ad Alzer Grande ce n'erano almeno 200, e però con diciamo così le leggi fasciste veniva richiesto, siccome erano considerati luoghi insalubri, portatori di malattie, in realtà era poi la situazione dei nostri territori, insomma, poco salubre o comunque insomma con situazioni igieniche molto scarse, si riteneva che colpevole di questo fosse proprio la struttura del casone e quindi venivano dati appositamente dei finanziamenti per abbattere i casoni e costruire le case in muratura ed era obbligo abbattere l'uno e costruire l'altro, per cui nel giro di una trentina d'anni sono stati persi quasi tutti i casoni. altra parte, come è accaduto e sappiamo dalla storia, sono stati bruciati perché magari iniziava un incendio dall'uno che si propagava poi anche per gli altri, proprio perché la particolarità dei casoni è proprio questo tetto in paglia a spiovente. Arzergrande peraltro era territorio particolarmente noto proprio per la coltivazione, ma più che altro per l'uso e la lavorazione della canna palustre, quelle che normalmente definiamo in dialetto veneto grisoe. Cosa che si fa ancora in questa ad Arzergrande? Sì, tuttora abbiamo delle ditte, delle aziende che operano in questo settore e che hanno collaborato nel 2008, entro il 2008 e poi lo scorso anno con una manutenzione dell'edificio a risistemare alcune infiltrazioni che erano presenti sul tetto incannucciato. E quindi appunto è tuttora un'attività che persiste. Peraltro sono tra i pochi, anche le ditte di Arzergrande, ad operare sugli altri casoni veneti esistenti. Ne esistono 6 in tutto, ma diciamo l'unico che è giunto originale senza danni da incendio oppure da rifacimenti importanti è proprio quello di Arzergrande. Ecco, questo casone oggi acquista anche un senso culturale per l'intera Saccisica, perché sia all'interno è un piccolo museo della civiltà contadina, sia perché per voi anche con questa nuova struttura diventa un polo culturale e di possibili incontri e iniziative varie per il territorio. Sì, l'intenzione era proprio questa, di far rivivere il casone sia nelle sue tradizioni, dove appunto abbiamo già un'associazione che collabora con noi, che è Vita ad altri tempi, che appunto ripropone soprattutto alle scuole che ultimamente sono abbastanza presenti, i mestieri di una volta e qual era la vita del casone, ma in maniera estesa anche qual era la vita contadina nei nostri territori. E dall'altro però stiamo cercando di farlo rivivere e farlo conoscere anche alle nuove generazioni, però anche rispetto a una chiave di lettura che è moderna e nuova, ed è per questo che abbiamo scelto anche una struttura, un padiglione nuovo di accoglienza completamente distaccato come architettura. E noi abbiamo iniziato già da alcuni anni un percorso di attività soprattutto estive, e non solo appunto di ripresa degli antichi mestieri, ma anche appunto con dei momenti particolari di letture animate, dei concerti anche di livello, l'inserimento poi di questo casone già dall'inizio nel 2009 nel Festival Scene di Paglia, che ormai è noto anche in tutto il Veneto, quindi l'intenzione è proprio quella di restituirlo completamente anche a un nuovo modo di essere comunità, insomma. Ecco, quando si può vedere? Ci sono degli orari, delle occasioni particolari, le domeniche forse? Allora, solitamente il casone per le visite è aperto la prima domenica di ogni mese, il pomeriggio dalle 16 alle 18. Adesso, grazie alla nuova costruzione, possiamo pensare di ampliare anche questa fruibilità, cosa che prima per mancanza di servizi igienici o di una struttura idonea non riuscivamo a svolgere come accoglienza, per cui l'intenzione proprio futura è quella di ampliare non solo le aperture ma anche le possibilità di utilizzo di tutto questo spazio, tenuto conto poi che all'interno di questo spazio manca ancora il pensare a tutta un'area agricola che è dietro, che potrebbe un domani, speriamo in un futuro molto prossimo, diventare anche un'area di giardino attrezzata, un'area parco. Grazie all'assessore Favaron, e passiamo decisamente a un altro argomento con le consuete notizie che chiudono la nostra trasmissione, e parliamo di Expo, non di quella di Milano ma di Marghera, dove esiste un'altra Expo, Acque Venezia 2015, che è una grande esposizione universale dedicata all'acqua ed è anche l'unica esposizione collaterale all'esposizione milanese ufficiale, in effetti è da essa patrocinata. E si tiene nello stesso periodo dal 3 maggio al 31 ottobre 2015. All'interno di Acque Venezia 2015 si svolgeranno vari eventi. Ne citiamo uno, la manifestazione Pianeta Acqua, un ciclo di eventi scientifico-professionali suddiviso in 3 momenti, goccia verde, bianca e blu, dedicato all'aggiornamento e al confronto tra gli addetti al settore al fine di sviluppare e promuovere il business legato al comparto idrico e ambientale. La prima delle manifestazioni previste da Pianeta Acqua, la goccia verde, si terrà l'8 e il 9 maggio con 2 convegni. Venerdì 8 maggio alle ore 9.30 il tema è una seconda vita all'acqua per la ricchezza alimentare. Sabato 9 maggio alle ore 9.15 invece si parla di l'agricoltura per l'acqua. Quindi ad Acque Venezia Marghera l'8 e il 9 maggio. Unione Europea, buone notizie per il clima. I dati provvisori pubblicati dall'Agenzia Europea per l'Ambiente EEA mostrano che il livello medio di emissioni di CO2 da autovetture nuove vendute nell'Unione Europea nel 2014 è risultato inferiore del 2,6% rispetto al livello del 2013. Un'altra buona notizia è che la media di 123,4 grammi di anidride carbonica per chilometro è risultata nel 2013 inferiore all'obiettivo di 130 grammi per chilometro fissato dalla normativa europea per il 2015, obiettivo quindi in questo caso almeno che è stato raggiunto. Infine una notizia breve, estate ragazzi, sono state aperte le iscrizioni ai campi estivi per ragazzi ai confini della Grande Foresta che si terranno nel Cansiglio, quindi presso la Foresta del Cansiglio, nel rifugio escursionistico Casa Vallorca nei mesi di giugno, luglio e agosto. Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere alle guide al Pago Cansiglio. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento con il quadrifoglio alla prossima, ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.